24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Professor Monti veramente ha lasciato noi, se non ricordo male, un anno e mezzo fa. Io ne ho raccolto doverosamente o comunque volontariamente il compito di guida di un piccolo partito che a partire da quel momento ha visto segnato il suo destino di conclusione di un percorso politico. I senatori di Scelta Civica, alcuni parlamentari e il viceministro Calenda hanno valutato che, come avevano già detto, ritenendo che non ci fossero le condizioni per un congresso di rilancio di Scelta Civica, che questo soggetto era ormai irreversibilmente in crisi, come i nostri elettori avevano decretato. Colleghi parlamentari, noi abbiamo avuto a tratti in questi due anni la sensazione di vivere in un film di fantascienza. Perché, alla luce di quello che è successo in questi giorni, abbiamo finalmente capito che tra noi c'erano gli ultracorpi. Vi ricordate il film di fantascienza? Gli ultracorpi, no? Sembrano come te, ma vengono da un altro pianeta. Sembravano di Scelta Civica, ma erano dei figli. Va bene, il convegno di Scelta Civica, voci di Scelta Civica, formazione che vale più o meno lo 0,2%, questo dai sondaggi, 0,3%, 0,4%, 0,5%, che raccontano di tradimenti, volta gabbana, persone che cambiano la politica, cambiano anche le maggioranze che sono passate di qui e di là. Questo è l'aspetto politico, gente che si muove, transumanze, questo è. E vola sempre la solita accusa di tradimento, tradimento in politica. Sono le 6:32 minuti, questa è 24 mattino, Vabbè, l'avete sentito salutare tante volte in questi giorni, ma voglio farlo anch'io. Quello che per tutti voi magari era un nome, quando si diceva spesso salutiamo in regia Fabio Cantadori, no? Uno dei nostri tecnici, che da venerdì non c'è più. E per noi era Rudy, un amico oltre che un ragazzo davvero speciale. Ciao. Come si dice in questi casi, si va avanti. Sono le 6:32 minuti e questa è 24 mattino e allora siamo qui. Voglio salutare Lorenzo Nespoli come sempre in redazione e voglio salutare Gianmarco Ferronato lì in regia assieme a noi. Che dire, ci sono tante cose di cui vogliamo parlare, lo faremo anche con uno juventino, mannaggia. Me lo fate, no, non è che me lo fate apposta, sono io che me lo faccio apposta, perché cos'è questo? È l'inno della Juve? Che palle, ragazzi. Vabbè, lo fermo subito, va, dai, apri il Parlamento, va, faccio subito, lo fermo subito, così, lo interrompo subito. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, no, grazie. Allora, il ministro Boschi berrà un caffè, poi si fermerà con noi, caro Federico Novella. Oh, buongiorno. Come mai hai la voce così squillante? Che succede? Forse perché mi sono svegliato mezz'ora fa, nemmeno. Ah, ecco. Oggi sono molto preoccupato, Sei molto preoccupato perché? Sono preoccupato perché temo che stavolta non mi si alzi la sbarra a Cologno, perché secondo me gli juventini da quelle parti non li vogliono proprio vedere. Mi sa di no. Vedi un po' se la sbarra, se dove passi è dritta o se è parallela, se è un attimo dritta la riga, o se voi juventini fate sempre le righe storte. Deves, Allora, io devo svelare anche questa cosa. Sabato mi sono scientemente, insomma, volutamente, poi non erano giorni. Non erano neanche giorni. Volutamente non ho guardato la partita. Beh, ero a teatro a vedere. Ma ho fatto bene, sì, lo so. Ma hai fatto benissimo. Lo so benissimo che ho fatto bene, è inutile che tu me lo ricordi. Ho fatto bene perché sapevo benissimo che è inutile, soffrire inutilmente. Ma sì, un po' così. Cioè, insomma, ho detto il campionato inizia settimana prossima, per noi c'è domenica. Adesso abbiamo due partite in casa, è inutile accanirsi con partite impossibili, soprattutto quando si gioca contro chi ruba. Quindi, insomma, piano con le parole. Mi fa piacere che per consolarti tu abbia invitato il ministro Boschi. Allora, vabbè, siamo con Federico Novella e con Federico Novella, perché Chiara Geloni non risponde. Federico Novella al cubo. Federico. Esatto. Quindi ci becchiamo uno Juventino al cubo. Vabbè, devi dire qualcosa su queste cose della geometria variabile, era fuori gioco, non era fuori gioco? Non lo so, guarda, io non lo so, ho sentito Caressa su Sky, il quale diceva che la posizione era regolare e che la prospettiva ingannava. Sì. Poi del resto io poi non... Ma dove sei sempre quando tu parli, che vai in cantina? Eccomi. Sono sempre sulla tangenziale nord, deve essere un problema qua dell'imbocco della tangenziale. Poi detto questo, non lo so, forse avrà ragione anche Galliani quando dice che ci devono essere registi indipendenti. Non sono così addentro alla materia da poter dare un giudizio. Te lo lascio a te, Alessandro. Ma guarda, io non sono indipendente, soprattutto non sono regista. Esatto. Non lo so, l'altro giorno sentiva tutti i convocati, hanno chiamato Popi Bonnici, grande Popi Bonnici. Grande. Che sicuramente, se ha detto che era regolare, ha sbagliato. Se ha detto che era giusto, sei obiettivo come Mattarella, dai. Sei veramente un Mattarella. Perché? Allora, vabbè, la situazione vede queste cose. A parte il calcio, a parte il noioso calcio, la politica. Allora, hai visto che bella di sfida quelli di Scelta Civica? È la scissione dell'atomo, come si dice in questi casi, no? Sì, abbastanza. Sì, devo dire che pensare che quanto, neanche 3 anni fa, Scelta Civica era il faro che avrebbe guidato il paese nel futuro, perché lo chiamavamo Super Mario Monti. Ma è incredibile, effettivamente. I giornali ne tessevano le lodi, sembrava Garibaldi Mario Monti, adesso è rimasto nel suo partito da solo. Ma neanche, perché addirittura qualcuno dice è Monti che ci ha lasciato per primo, insomma. Queste sono faide veramente terme. Poi devo dire il fatto che questi abbiano lasciato Monti per andare col PD non è che siano stati molto criticati sui giornali, No, devo dire, infatti, devo dirti, stavolta no, eh. No, infatti vorrei lanciare un appello ai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Come chiamereste coloro che hanno cambiato partito? Volta Gabbana, traditori, perché sai che molti dicono che in politica il tradimento è la prima legge della termodinamica politica. Sì. Altrimenti dette legge di Scilipoti, Abbastanza. Effettivamente Scilipoti non è stato trattato benissimo da gran parte della popolazione quando fece questa cosa per salvare il governo Berlusconi. No, ma perché vale il principio che se un parlamentare va in un altro partito è un traditore, sì, ma se quell'altro partito è il tuo è un benefattore, è un responsabile, uno stabilizzatore, ho sentito dire. Guarda, bravo, hai detto stabilizzatore. Esatto, hai detto una cosa a favore di Berlusconi e quindi può darsi che la sbarra rialzarsi. Ho letto sul Libero una lettera di Scilipoti, mi tocca dar ragione pure a Scilipoti, che ha detto: ma come, quando io sono andato con Berlusconi mi avete dato del traditore, e adesso questi qua li dipingete come grandi statisti solo perché vanno col PD, poi alla fine nessuno si salva, la verità è che sei traditore, Volta Gabbana, e coraggioso a seconda delle convenienze, purtroppo. È abbastanza vero, è così, d'altronde come diceva e scriveva ieri Libero, credo 170 parlamentari dall'inizio della legislatura hanno cambiato partito. Oh, 170 sono tanti, eh? Sono tanti. La legislatura è iniziata da 2 anni. Cioè, anche vero che in politica purtroppo è sempre stato così, però è altrettanto vero che da Renzi ci aspettavamo una ventata di novità, da questo punto di vista, che non c'è stata. Quando c'è stata da non voglio dire comprare perché è una parolona, quando c'è stato di fare scouting, quando si dice, lui non si è tirato indietro, anche perché da qualche parte i voti di Forza Italia bisogna riprendersele adesso, no? Comunque, come chiama, ecco, ovviamente ho lanciato questo contest su come chiamereste voi al 349-238-6666 quelli che hanno cambiato casacca. Ma vanno bene anche le parolacce? No, infatti forse non dovevo. Non dovevo. Il passo più lungo della gamba forse ho esagerato, perché c'è chi ci scrive Franco, il nostro tassista Franco che ci segue. Ci ho pensato a lungo, ma credo che il migliore rimanga il canonico salomonico pezzi di ma è uno dei più gentili, è uno dei più gentili di questi. Vabbè, e che dobbiamo fare? Ci sono nuove maggioranze, ma tu credi invece a questa? Stai attento perché tra poco, guarda che vai alla sbarra di Mediaset, stai attento a come rispondi. Credi a Berlusconi che dice ora opposizione a 360 gradi, perché guarda che dicono che oggi poi incontrerà i figli e Confalonieri. Stai attento, Confalonieri. Aspetta, prima fammi entrare, aspetta che sono arrivato. Esatto. Fammi entrare. Allora. Aspetta un attimo, vediamo se la sbarra si apre. Poi puoi dire tutto. Buongiorno. Ecco qua. Potete aprire a novella? No, aspetta che copro la sciarpa della Juve. Sei veramente aperto, ci siamo. Aperto, ci siamo. Ora bene, puoi dire tutto ciò che vuoi. Confalonieri, allora dicevamo. Sì. No, oggi Berlusconi incontra Confalonieri e si sa che i figli e gli amici dicono attento, le aziende, guarda tante cose, stai attento anche tu come rispondi. Fammi la domanda, dai. Vabbè, insomma, farà un'opposizione veramente 360 gradi Berlusconi o no? Allora, secondo me sarà un'opposizione più dura, però le frasi di questi giorni sono dettate soprattutto dal fatto che bisogna tenere insieme il partito. E c'è Fitto che è scatenato, ha già lanciato questa iniziativa dei ricostruttori, che non è un'associazione di chirurghi plastici, ma è una cosa tipo rottamatori del centrodestra. Sì. E quindi lui ha bisogno, in questo momento, lui ha bisogno di dare un messaggio, cioè di dire esistiamo, siamo rimasti profondamente scottati dal fatto che ti sei scelto il Presidente della Repubblica da solo, però poi secondo me alla fine il patto Nazareno, per carità, magari sarà, non esiste più, ma non è guerra aperta. Non è guerra aperta. Secondo me no. Va bene, allora comunque Gennaro ci dice che le definisce opportunisti, vedi che adesso comincia alcuni sempre elegante, Giulio elegante. Semplicemente italiani, Giulio, non è male, giustamente un ragionamento secondo il quale i nostri governanti non sono peggiori dei governanti, esatto, che guardate questo. Che non è io sposo questa teoria, quelli che dicono ma i politici sono tutti là, i politici non vengono da Marte, sono italiani che a un certo momento della loro vita fanno politica. È vero, si può dire il sistema ti corrompe dopo un po', ma la verità è che sono la rappresentazione dell'Italia, quelli che sono magari non esattissima, c'è una minoranza silenziosa di persone per bene. D'accordo, e infatti come diceva Churchill, no? E poi ripeteva anche Cossiga, il 70% sono farabutti, il 30% e poi insomma sono la rappresentazione, ci sono persone per bene in Parlamento, come gli italiani. Se sono pochissimi per bene in Parlamento, vuol dire che siamo pochissimi anche per bene in Italia. Dai, su. Mi trovo abbastanza d'accordo, bisogna fare un po' di autocritica, è vero. Comunque, Sandro li definisce semplicemente politici e Giuseppe attacca poltrone. Vedi che cominciamo. Attacca poltrone. Ci stiamo arrivando. Ma è il momento. Alla fine scegliamo il vincitore. Sì, esatto. Sì. E che gli diamo? Una sciarpa della Juve? Sì, se l'accetta, sì, volentieri. Può farne ciò che vuole, ovviamente, anche bruciarla con un po' di benzina. Gasolio, esatto. Certo, ma è il momento Boschi, che oggi coniuga due cose, la sua straordinaria voce, vabbè, si sa, le S, le C, le... Anche del Milan, lo sapevi? tiene anche al Milan, come Luca Lotti, sottosegretario Fiorentina, come il presidente del Partito Democratico Orfini, insomma. Sì, esatto. Come il direttore di Rai 3 Andrea Vianello. Esatto, è il salotto buono. È il salotto che conta, è il salotto che conta dell'Italia. Esatto. Vabbè, la Boschi coniuga, oltre alla sua impareggiabile voce, anche un giudizio politico su Scelta Civica. Attenzione, Non è cambiato l'assetto di governo perché Scelta Civica era già parte della maggioranza, quindi non cambia, anche perché molti degli esponenti di Scelta Civica che entreranno nel Partito Democratico già sono membri del governo con ruoli importanti, quindi è una scelta politica, sicuramente la volontà di alcuni senatori e deputati di partecipare ancora in come modo come dice Scelta Civica, detto dalla Boschi, devo dire che effettivamente Scelta Civica, tutte queste S, queste C, queste... Sì. Poi adesso scopriamo che tu hai capito cos'è, qual è il succo del suo, cioè... Sì, che la scelta civica è quella di passare col PD. Adesso scusate, fermatevi un momento. Cioè, se io sono un elettore di Monti, io, lei dice giustamente, non è che hanno cambiato schieramento, hanno cambiato partito ma restando all'interno della maggioranza. Però è un ragionamento che secondo me non regge, nel senso che se io ho votato Monti, non ho votato uno di Monti perché andasse con Fassina, perché andasse con il Fani, perché andasse con stavo per dire Cofferati, ma non c'è più. Ma anche Fassina, mi sa che tra un po'. Tra un po' cosa? No, dico, c'è cioè, nel PD Fassina. Vabbè, ma dai, tra un po'. Vabbè, uno di quelli all'opposizione, insomma. Beh, no, non si capisce più niente. Partito, sì, certo. Finché stanno nel partito, insomma, non lo so. Cioè, secondo me non è che dice, vabbè, beh, resto nell'ambito del centro-sinistra, quindi... Ma Civetti, sei sicuro? Sei sicuro? Alle 6.45 non abbia già detto la dichiarazione, forse esco dal partito? Alle 6.45? No, sicuramente, sicuramente ha detto sto per uscire, sto cioè per lo uscire. Dice così, sto per uscire. Ma quando, quando meno ve lo aspettate, esatto. Quando meno ve lo aspettate, faccio lo scherzo di Civati, il famoso scherzo di Civati. Lo scherzone. Allora, siamo con Federico Novella. Tra poco ci dici anche che fai Mattino 5, visto che sei entrato nella sbarra Mediaset, e quindi è tutto legale. È tutto confermato per oggi. Intanto il traffico 24 mattino. Buongiorno Alessandro, mi spieghi per quale motivo ogni volta che un governo vuol dare una supposta agli italiani esce fuori quella famosa e fatidica frase l'Europa ce lo chiede? Cercate di calmare su Salvini, perché su Salvini brontola tanto che vuole un posto migliore, come ci danno il posto migliore si dimentica più di brontolare in televisione. Questa è l'Italia, capito? Ciao, Milan, ti saluto, ciao. Milan, buongiorno. Io vi ascolto volentieri, ma più vi ascolto e più mi... come dici tu il mattino. Ieri ho sentito che a Grigento si univano 1100 volte all'anno nel comune e poi davano 28 euro ai disabili all'anno. Poveri italiani, non ci meritiamo questa tragedia fino al 2018, visto che tutte queste finte opposizioni non hanno il coraggio di far cadere Renzi, perché perderebbero la loro poltrona e se si va a votare per colpa loro Renzi prenderebbe il 51%. Mattarella, pensaci tu! Prima vedo Renzi in televisione mi viene da vomitare, se sento le parole 80 euro al mese o patto del Nazareno mi viene la febbre, però devo darti un grande dolore, anche quando sento la voce meliodiosa che ti piace tanto della Boschi a me viene da vomitare. No! È bello, appena sento la parola patto del Nazareno mi viene la febbre. Sì, non è male. Poi mi viene da vomitare. Ma che paroloni. Ma dai. Si copra, signora. Sicuri. Ma signora, dai, facciamo risentire un attimo la Boschi per cortesia. Perché guarda che Scelta Civica l'ha fatto apposta. Proprio un commento su Scelta Civica. Cioè, sentite, capite che c'è il trionfo delle S, delle C toscane. Sentiamo. Non è cambiato l'assetto di governo perché Scelta Civica era già parte della maggioranza, quindi... Anche se la parola più incredibile per me è già, come dice già, quella G che è più un già. cominci a preoccuparmi, eh? No, no, vabbè. A proposito di Salvini, sì, che t'ha fatto? È andato a Palermo. A Palermo, no, senti qua Salvini, Sentiamo. A Palermo, preso a insulti un po' così. No, io ho sempre attaccato e sempre attaccherò la cattiva politica. Se Regione Sicilia ha 20.000 dipendenti regionali... Vabbè, qui attacca la mala politica, però, ma se anche, scusate, è stato preso a... cioè, del tipo vattene... Ma fa bene Salvini, cioè Salvini in Sicilia, Salvini a Napoli, Salvini... Oh, perché, ma, certo, ma faccia quello che vuole, però... Ma certo che fa bene, perché non dovrebbe farlo? No, certo che fa bene, però è abbastanza legittimo che venga accolto anche un po' a insulti. Diciamo che è più probabile che ci sia qualche esagitato a Palermo che contesti Salvini piuttosto che a Belluno, no? Però ormai lui sta costruendo un partito nazionale di fatto, c'ha già quel listone. Ho capito, lì. Ma cioè, vabbè, va bene tutto in politica, è un po' come cambiare poltrona, cioè nel senso la Lega, no, voglio dire, no? Che, vabbè, però ormai la Lega, grazie all'opera di Salvini, non è più la Padania, facciamo la Padania, ma è lottiamo contro questo Stato e questa Europa, non lo dice più nessuno, è rimasto solo lui a dirlo, e quindi è chiaro che lui si rivolge a tutti, da Catania fino a Belluno. No, mi colpiva nella segreteria telefonica quel signore che protestava, mi colpisce anche perché ne riparliamo oggi, di quei meravigliosi consiglieri di Agrigento. Ah, ne parlate voi? Sì, mattino 5. Noi ne abbiamo fatto venerdì, ma è fantastico. Sai che abbiamo avuto anche il presidente della commissione, volevamo averlo, al giorno prima ha detto va bene, prego. Alle 8 del mattino ha detto sì, tra un quarto d'ora ci sono, è scomparso. Tra le 8 e le 8 e un quarto si è dileguato. Aveva una riunione, aveva, sicuro. E ovviamente ci hanno detto sarà andato a presiedere per il gettone. Riunioni al giorno, tutti i giorni, che sì, Dio sì, manda sì, in terra, sì, anche sì, a Natale, sì. Questi si sono inventati le riunioni per prendere il gettone. A Palermo, ho visto dove era Salvini, hanno fatto una riunione, come raccontava Repubblica, per come oggetto salviettine e asciugamani nell'apposito contenitore. Questa è fondamentale. Due riunioni. In Costituzione gli asciugamani e le salviettine. Stai a vedere che scopriamo la nuova truffa, questa, altro che regioni, altro che le commissioni consigliari. Ma io purtroppo spesso leggo queste notizie e sono convinto che più vai nel piccolo e più le ruberie sono grandi. Per questo noi non riusciamo a diventare un paese federale, perché non siamo in grado di gestirsi da soli, cioè i governanti locali non sono migliori di quelli nazionali in Italia. Si ruba quel che si può. La differenza però è che se tu rubi a Roma c'è un controllo un po' maggiore, se rubi in provincia di Agrigento, ma chi ti va a controllare? No, va di se rubi a di il nome. Abbi il coraggio, se rubi, fai il nome del comune, no? Dove poi ti accolgono come altro. La lista è lunga, purtroppo. Guarda. Comunque, stravince nel salutarti, e ovviamente il nostro premio va a chi li definisce tronisti, coloro, purtroppo non si firma il nostro ascoltatore, ma tronisti, vabbè, lascio stare tutti gli insulti, ma dai, su. Però vabbè, facciamo anche questo di lavoro, lo sfogatoio, e quindi la gente insulta qui per non insultare al semaforo e fare una rissa. Tronisti, un po' alla Maria De Filippi. Tronisti. Sì, vincerà questo ascoltatore la sciarpa della Juve di Federico Novella, autografata. Esatto. Caro ascoltatore, puoi fare ciò che vuole. E qui la fantasia veramente si può sbizzarrire. Benissimo. Allora, manderò anche una foto autografata. Va bene, Federico, alle 9 sei su Canale 5 con Mattino 5 con Federica Panicucci. E Vi aspettiamo. Va bene. E allora vi occuperete di questa cosa, questi simpaticoni di Agrigento, tra l'altro. Altro che, non finiremo di arrabbiarci oggi. Va bene. Ciao, buona giornata, ovviamente. Ciao a tutti. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:16 minuti, cari ascoltatori, nel giorno in cui inizia la 93esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Noi con ottimismo siamo qui, ottimismo che si facciano queste cose, siamo qui a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo del caso del benzinaio di Nanto in provincia di Vicenza, che ha ucciso, sventando una rapina, un assalitore appunto di una gioielleria. È il famoso benzinaio Stacchio. Quante volte avete sentito questo nome in questi giorni? Anche la campagna Io sto con Stacchio. Avremo ospite il gioielliere che ha subito questa rapina. Avremo ospite anche il sindaco di Nanto. Parleremo di questa vicenda. Questo dalle 8:15. Parleremo anche un po' di politica con la vicenda di Scelta Civica. Molti che vanno a fare i... com'è che li chiamano adesso? Stabilizzatori. Gli stabilizzatori. Ah, la politica è proprio un racconto comico in Italia. Stabilizzatori del PD. Va bene, parleremo comunque dalle 8:15, intanto leggiamo i giornali. In questo lunedì 9 febbraio, intanto i titoli, come spesso accade il lunedì, la scelta dei giornali sono scelte diversificate. Il Sole 24 Ore apre sul rientro dei capitali, prende quota negli studi, un operatore su due prevede un successo sul rientro dei capitali. E a proposito di capitale all'estero, è stata diffusa la lista, la cosiddetta lista Falciani, con 100.000 nomi di conti nella HSBC banca in Svizzera. È l'apertura del Corriere, ci sono anche 7.000 italiani. E tra poco vi dirò qualche nome. Conti in Svizzera, ecco i nomi. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. La Stampa, banche, presto una legge per far ripartire il credito. Si chiama Bad Bank di sistema. Paduan avrebbe già ottenuto il via libera dall'Europa. Per il Messaggero, Renzi, subito le unioni civili. Il Premier accelera su coppie di fatto e ius soli dopo lo strappo di Berlusconi sulle riforme. Per Repubblica, Renzi gela Berlusconi, basta mediazioni, non cambio le riforme. Mentre il Giornale, Renzi e i ladri di libertà, Premier non eletto, capo dello Stato scelto da un Parlamento abusivo, leader dell'opposizione agli arresti, qualcosa non va. Queste alcune delle aperture. Poi ne vedremo anche altre. Intanto voglio iniziare a leggere i giornali proprio dalla cosiddetta lista Falciani. Hervé Falciani era un ex dipendente del CSBC che aveva sottratto un elenco di correntisti. Ora, in un'operazione fatta dal Network di Washington International Consortium of Investigative Journalists, insieme a diverse testate, per l'Italia pubblicherà tutto l'elenco di nomi L'Espresso, e quindi venerdì, però sono stati svelati, già anticipati, l'elenco di 100.000 conti svizzeri. Per carità, essere in questi conti dell'HSBC non vuol dire automaticamente essere chissà cosa, per lo più evasori fiscali. Però certo, questa operazione Swiss Leaks porta già alla luce, come racconta Repubblica a pagina 12 con Gianluca Di Feo e Leo Sisti, un sistema opaco che in alcuni casi ha esplicitamente aiutato i protagonisti dei traffici più biechi e gli evasori fiscali, permettendo loro di nascondere capitali colossali nei forzieri svizzeri. E allora iniziamo da alcuni nomi, perché lo so che volete i nomi, tutti attendono i nomi. Chi c'è in questi 100.000? Beh, c'è un po' di tutto, star mondiali, la top model australiana Elle Macpherson, gli attori Christian Slater, John Malkovich, Joan Collins, il re di Giordania Abdullah II, il re del Marocco Mohammed VI, il nobile arabo Bamdar bin Sultan, il principe del Bahrain Salman bin Ahmad Al Khalifa. Ci sono piloti di Formula 1, c'è Fernando Alonso per esempio, c'è Kovalainen, c'è Phil Collins, c'è Tina Turner, quindi cantanti. E poi ci sono anche gli italiani. I tre nomi che oggi finiscono sui giornali, pagina 13 di Repubblica, ma anche pagina 13 del Corriere della Sera, sono lo stilista Valentino, il deposito più consistente è la firma della moda Valentino, nel 2006-2007 disponeva di 108,3 milioni di dollari nel conto numerato 3326CR. Ufficialmente Valentino ne risulterebbe solo procuratore, scrive Repubblica, insieme al ginevino Marc Bonin, famoso legale tra i tanti anche di Licio Gelli. E poi altro Valentino, ma questa volta è il dottore Valentino Rossi. Ha avuto i suoi guai con l'erario, racconta Repubblica. I sospetti sulla sua residenza londinese hanno provocato un procedimento per evasione aperto nel 2008 e chiuso da un accordo. Valentino Rossi alla HSBC nel 2003 aveva 23,9 milioni di dollari nel conto numerato Kikiki 62. L'avvocato però di Rossi ha precisato che sborsando 30 milioni di euro il suo assistito ha definito ogni controversia su conti esteri. E poi Flavio Briatore, questo è il terzo nome che spunta, da anni residente all'estero, a lui fanno capo 9 conti ed è beneficial owner di 6 di questi conti con su 73 milioni di dollari. Questi alcuni nomi italiani, come racconta la stessa, lo stesso consorzio di giornalisti che ha diffuso le prime liste, essere in questa lista non significa automaticamente aver commesso alcun tipo di reato. Questo è bene tenerlo in conto, però intanto la lista c'è, i nomi girano venerdì e comunque nei prossimi giorni si sapranno tutti i nomi. Oh, prima dicevamo con Federico Novella la massima, secondo Federico Novella, secondo anche me, è chi può in Italia ruba in genere, eh? Adesso non sentitevi presi subito sul punto a dire parla per te, io non ho mai rubato un euro in vita mia. Sì, anch'io non ho mai rubato un euro in vita mia. Tutti singolarmente, se ce lo chiedono, dice no, non ho mai rubato un euro in vita mia. La verità, visto che ci accaniamo sempre coi politici che rubano, ma sono l'espressione degli italiani, la sensazione è che chi può ruba. Guardate qui questa storia che riguarda dei piloti, la truffa dei piloti che erano in esubero per Alitalia, Meridiana, Winjet, ma pare che siano anche, è una truffa scoperta dalla Guardia di Finanza, anche hostess, anche steward, quindi assistenti di volo, insomma erano in cassa integrazione. Nel frattempo lavoravano all'estero, senza comunicarlo all'INPS. C'erano dei piloti che prendevano la cassa integrazione e lavoravano volando all'estero, cumulando quindi tra cassa integrazione e stipendio all'estero 25.000 euro al mese, truffando all'INPS i soldi e quindi a tutti noi, soldi mica male. Fiorenza Sarzanini sul Corriere, soldi dall'INPS e lavoro all'estero, i piloti da 25.000 euro al mese. Ma anche su Il Messaggero c'è anche un'intervista a Giovanni Luciano della CISL Trasporti che dice che schifo, ci siamo battuti per loro e ci hanno derubato, come mi sento schifato, così dice Giovanni Luciano, segretario della CISL Trasporti, davanti al caso di 36 piloti italiani denunciati per truffa, ma in realtà pare che la truffa sia più larga, adesso stanno indagando. E pensare che ci siamo battuti per loro, sono quelli che nel 2008 hanno perso il posto di lavoro e hanno ottenuto la garanzia di un trattamento pari all'80% di stipendio per i 7 anni successivi. Sentire che alcuni di questi sono andati a volare all'estero e non l'hanno comunicato all'INPS, beh, questo vuol dire rubare alla collettività. Hanno rubato a tutti noi. La tecnica era questa: cassa integrazione, andavano all'estero, non lo comunicavano all'INPS e l'INPS continuava a erogare la truffa dei piloti col lavoro all'estero e il sussidio dell'INPS. Anche Federica Angeli su Repubblica dedica una pagina, pagina 17, a questa bella combriccola di persone. Invece che è successo a casa La Russa? Ignazio La Russa, toc toc, è la polizia. Lo racconta il Corriere della Sera, è successo venerdì, lo racconta il Corriere con Marco Cremonesi a pagina 25, venerdì scorso, una festa con un po' di musica ad alto volume, probabilmente del figlio di Ignazio La Russa, a un certo punto toc toc bussa la polizia, un gran classico, potete abbassare la musica. Io non ho parlato di zecche comuniste, esordisce così Ignazio La Russa. Comunque sono stati dei radical chic che mi volevano fare qualche scherzo, che abitano da queste parti, a mandarmi la polizia. Mi hanno organizzato questa porcata, tutto qui. Ma cosa vuole che le dica? C'erano semplicemente una festa di mio figlio, io ero in camera mia a leggere un libro, musica alta, alta, ma che vuol dire alta? Sì, forse sarà stato il momento dell'happy birthday to you. E allora, insomma, è arrivata la polizia. E io ho detto ai poliziotti, con tutto il rispetto per voi a cui voglio bene, questa è una porcata che ha organizzato qualcuno. E vabbè, che ne so, forse qualcuno dei radical chic che abitano da queste parti. Ignazio La Russa e la disfida della polizia. Vabbè, ma siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata. Io l'ho letto e non ci volevo credere. L'ho dovuto rileggere 4, 5 volte, 6 volte. Eppure succede in Italia nel 2015. Poi dopo si dice, la gente si arrabbia. Padova. Come racconta il giornale con Nino Materi, accoltella due carabinieri, libero dopo 24 ore. Uno spacciatore libico, si chiama Imed Hanoussi, 35 anni, pregiudicato, senza fissa dimora, viene colto in flagranza di reato da due carabinieri mentre sta spacciando. I carabinieri gli intimano l'alta, lui parte con il coltello. 10 punti di sutura su una mano di un carabiniere, prognosi di 20 giorni. Ferita una gamba e 15 giorni di prognosi al secondo carabiniere, viene arrestato. Alla fine viene fermato il giudice, il giorno dopo decide per la scarcerazione, con l'unico provvedimento a suo carico, il divieto di dimora nel comune di Padova. Indovinate un po' adesso dove si trova questo libico? Non si sa. È uccel di bosco, è sparito, ma va! Milan, quante chiacchiere che dite al mattino! E vabbè, insomma, facciamo un po' di chiacchiere, sì, caro ascoltatore, questo è. Allora, la politica, c'è un Berlusconi che dice che faremo opposizione a 360 gradi. Il tema è quello, sempre, il patto del Nazareno, rotto, definitivo, sepolto. A meno che non ci siano dei ripensamenti, fa sapere il quotidiano Repubblica, per esempio, perché oggi c'è un incontro importante, il solito incontro del lunedì con i figli e con Confalonieri, l'amico di sempre, e i familiari. Ed è Berlusconi lì che deciderà molto probabilmente se questo patto del Nazareno è morto oppure no, perché è stato detto più volte che sia i familiari sia Confalonieri spingono perché in nome della solidità delle aziende Berlusconi non rompa politicamente con Renzi. Per la verità, racconta Carmelo Lopapa su Repubblica pagina 8 che Berlusconi ha visto ad Arcore Matteo Salvini. Qui c'è un po' un giallo perché il giornale dice Salvini vedrò Berlusconi e il Repubblica dice che già si sono visti ieri sera. Anzi, Lopapa scrive su Repubblica: hai visto che facciamo sul serio? Ora ci sono tutte le condizioni per tornare insieme. Così Berlusconi accoglie ad Arcore Matteo Salvini, lo accoglie a braccia aperte. Un Matteo Salvini reduce dal tour a Palermo. Ieri era da Berlusconi insieme al collega leghista Giorgetti. E poi è un Berlusconi che appunto è intervenuto telefonicamente alla convention di Rotondi dicendo facciamo opposizione a 360 gradi, parlando del patto del Nazareno come di un peso che si è tolto. Faremo opposizione a 360 gradi, anche il titolo di pagina 6 del Corriere della Sera. Dall'altra parte c'è un Renzi che però non molla di un centimetro. Questo è il tema politico. Renzi che dice: l'Italicum non cambia, non medio con Berlusconi la resa dei conti al referendum. L'Italicum non si tocca, fa sapere su Repubblica Goffredo De Marchis. Matteo Renzi non concede sponde alla minoranza del PD e anche a Forza Italia, che se vuole sedersi di nuovo intorno al tavolo sa di poter contare sulla quota di nominati in Parlamento già concordata. alla domanda di alcuni di sentire Berlusconi, risponde Renzi: ma scherziamo, e perché lo dovrei sentire? La legge elettorale è fatta, la riforma costituzionale è avviata, al referendum confermativo avremo il PD da una parte e un'alleanza Vendola, Grillo, Berlusconi, Salvini dall'altra, schierati contro una norma che riduce i costi della politica, semplifica e colpisce i consigli regionali. Contenti loro. Questa è la visione politica futura di Renzi, che dunque dice non si cambia nulla. Per ribadirlo, il ministro Boschi fa un'intervista che potete leggere, intervistata da Francesca Schianchi, sia sulla Stampa che sul Secolo XIX, giornali che collaborano, sono abbastanza in sinergia. Ed eccola qui l'intervista. Il ministro Boschi sulla legge elettorale: non si torna indietro. Siamo, ricordo, nella 93esima settimana decisiva, ma ora c'è un orizzonte. Sentite il ministro Boschi. Speriamo di approvare la legge elettorale entro l'estate. Ah, entro l'estate. Magari riusciremo a smettere di contare. Entro l'estate. Mancano un po' di mesi. Però, con ottimismo possiamo sperare tutto. Mi auguro che Forza Italia, dice il ministro Boschi, torni sui suoi passi. Così, se non fosse, noi comunque non ci fermiamo. I numeri li abbiamo e andiamo avanti. Puntiamo anche a chiudere in seconda lettura entro sabato la legge costituzionale. Abbiamo chiesto e ottenuto un calendario impegnativo tutti i giorni dalle 9 alle 23, perché è importante dare il segnale che le riforme restino la priorità. Riguardo al patto del Nazareno, dice il ministro Boschi, se si è rotto, lo ha rotto Forza Italia. Fin dall'inizio era chiaro che riguardava solo la legge elettorale e le riforme costituzionali, e il PD lo ha rispettato. Rompere perché abbiamo eletto una persona per bene come Mattarella alla presidenza della Repubblica mi dispiacerebbe per Forza Italia. E se vengono meno i voti di Forza Italia, non voglio sottovalutare il contributo politico di Forza Italia, ma abbiamo contato su quei voti perché c'era un accordo. Li abbiamo coinvolti, abbiamo cercato di coinvolgere anche tutte le opposizioni, incluso il Movimento 5 Stelle, perché riteniamo sia il metodo giusto per scrivere le regole, non per calcoli numerici. E riguardo ai senatori di Scelta Civica passati al PD, non hanno cambiato schieramento, dice, continuano a votare la fiducia. Personalmente ho il massimo rispetto per chi crede ancora in Scelta Civica, ma c'è chi vuole partecipare al cantiere del più grande partito europeo, il PD, ed è nostro dovere accoglierlo. Qui il tema è interessante, perché ricordate la vicenda Scilipoti, traditori, Volta Gabbana. Adesso invece si chiamano stabilizzatori. Questa è la versione edulcorata, stabilizzatore. A chi dice: ma come? E adesso come definire quelli che di Scelta Civica sono passati al Partito Democratico? Stabilizzatori, questa è la versione. C'è chi invece continua, traditori, eccetera. Il neosegretario di Scelta Civica Zanetti, ieri eletto segretario, ha detto: ho una voglia di spaccare tutto che quasi non riesco a sorridere. Mentre invece Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario che da Scelta Civica è passata al Partito Democratico, intervistata da Paolo Conti sul Corriere della Sera, pagina 9, dice: il partito è stato rovinato dagli ambiziosi, lì non si fa politica. E risponde: se la sintesi politica è quella del segretario Zanetti, cioè che noi avremmo rappresentato una invasione di ultracorpi del PD in Scelta Civica e che saremmo stati stanati, allora sono certa che ciascuno dei miei elettori approverebbero la decisione che ho compiuto dopo molte incertezze. Siamo ai sondaggi Scelta Civica allo 0,2%, si toglie qualche sassolino, Ilaria Borletti Buitoni. In particolare il segretario Zanetti non ha voluto ascoltare ed ecco il risultato. Mi spiace anche che Bombassei, un imprenditore che stimo molto, abbia detto che vogliamo conservare il posto. Renzi sta compiendo una vera rivoluzione in Italia. Ma insomma, lei vuole conservare il posto? Perché questa è la domanda che fa il Corriere. Non ho mai ragionato in questi termini, risponde Ilaria Borletti Buitoni. Mi sono dimessa da tutti gli incarichi quando mi candidai e li ho lasciati prima e non dopo. Opero come sottosegretario con spirito di servizio e il mio incarico è a disposizione del Presidente del Consiglio. Vabbè, comunque la vediate, comunque la pensiate. Questa è la situazione politica, un po' in movimento, diciamo. Anche Salvini che va al sud, a Palermo, e viene accolto da un 200 dei centri sociali a uova e un po' di proteste. E lui vede sui cartelli la scritta «Je suis Terun». Non male, l'hanno accolto con questi cartelli «Je suis Terun», alcuni dei centri sociali. E lui si è anche lanciato in alcune scuse, a dire mi scuso per i toni del passato, attaccavo la classe politica e non voi cittadini di Palermo e del sud e della Sicilia. Vabbè, intanto però la politica segna anche un passo avanti, è un po' come un tango. L'altra settimana c'è stato un passo avanti e un passo indietro, adesso un altro passo avanti delle unioni civili, secondo il Messaggero, che mette questo titolo in prima pagina. È il titolo proprio di apertura. Subito le unioni civili. Renzi vuole spingere sul disegno di legge Cirinna, la senatrice del Partito Democratico. È un disegno di legge che, alla stregua di quello che succede in Germania, dà la possibilità alla coppia omosessuale che decide di sposarsi tra virgolette, perché non lo chiamerebbero matrimonio, ma insomma di fare un'unione civile, di iscriversi in un apposito registro. I diritti garantiti per le coppie omosessuali e insomma tutte le coppie di fatto sono: reversibilità della pensione in caso del decesso del compagno o della compagna, diritto alla successione, possibilità di partecipare ai bandi di assegnazione delle case popolari. Il divieto che rimarrebbe è la possibilità di adottare bambini. La coppia omosessuale non potrà comunque adottare bambini, c'è solo la possibilità della cosiddetta stepchild adoption, cioè sarà possibile a uno dei due soggetti della coppia omosessuale adottare il figlio dell'altra persona dell'unione, che fa parte dell'unione di persone, e anche il figlio adottivo, cioè, e quindi se è il figlio adottivo, insomma se è il figlio di uno dei due, l'altro può adottarlo all'interno della coppia. Accelera, si ferma, arriverà? Secondo il Messaggero adesso c'è un'accelerazione. Renzi vuole aumentare la velocità su questo tema, un tema che è un tema etico, sul quale ci sono divisioni sicuramente, anche probabilmente all'interno dello stesso partito, il Partito Democratico, sicuramente anche nella coalizione di governo. Il nuovo centrodestra di Alfano è certamente contrario a questo provvedimento, ma noi siamo con il nostro Mauro Meazza. Buongiorno caro Mauro. Buongiorno, ti sento rinfrancato. Sì, tu invece stai studiando geometria. Io sto studiando geometria, certo. Con le parallele, rette parallele, con le rette convergenti. Le rette convergenti. Certo. I latrocini, perché sempre te. Cioè, siamo passati dal prendercela con l'arbitro a prendercela con il regista, nel senso televisivo. Sì. Mi sembra un salto di qualità questo nella polemica. Vabbè, torniamo. Sorridi. Visto che parliamo di geometria e di agrimensori, vorrei parlare l'IMU agricola, guarda. Ci siamo? E ci siamo, è domani. Però ottimo. Attenzione, perché oggi su Sole 24 Ore facciamo un utile riepilogo, perché potrebbe anche darsi che in 900 comuni non si debba pagare in forza del decreto, non di gennaio ma di novembre. Se non hai capito nulla, come sempre, leggi il Sole 24 Ore, perché riassumerti in un minuto questa vicenda, che oramai abbastanza omerica, è un pochino difficile. Parliamo di rientro dei capitali, questa è un po' una cosa che abbiamo messo lì per te, insomma, i tuoi 2 eurini caduti a Lugano. Appare la lista Falciani, capisci? Sì, ritorna. Falciani che continua a isolare per i computer e anche le procure. Sei in lista? Appunto, spererei di sì, ma temo di no, ecco. Hai capito, mi farebbe piacere avere dei soldi in più, però, ma adesso vado a vedere se mi trovo nella lista, per caso mai potrei vedere qualcosa. Se trovo il tuo nome ti chiamo? Sì, posso essere tuo amico allora? Sì. Senti, a parte la cosa a proposito dei 2 eurini, guarda che oggi con Risparmio di Famiglia ci spieghiamo anche come scegliere adeguatamente un consulente per il risparmio, appunto un consulente finanziario. Siccome tu hai questi grossi capitali in circolazione, che adesso con la voluntary disclosure puoi anche riportare nella regolarità fiscale, leggi attentamente, oltre all'Imo Agricola, anche le pagine di risparmio e famiglia, mi raccomando. E poi una sentenza molto interessante, un indennizzo a una persona purtroppo colpita da un errore sanitario, un indennizzo non come si fa di solito, cioè tutto in una volta, ma con rendita vitalizia. Ne parliamo nelle pagine di Norme e Tributi. È stata una decisione presa a Milano che potrebbe avere degli sviluppi interessanti e utili. E poi parliamo anche di esonero contributivo, perché nella legge di stabilità c'è un aiuto, appunto un esonero di contributi per chi stabilizza ad esempio le assunzioni. Questo e molto altro. Adesso però devo tornare sul manuale di geometria di figlia, sì, per vedere un attimo la questione delle parallele, perché non sono sicuro di ricordarmela così bene. Ecco, studia. Sì, poi manda a Torino tutto. Mando tutto, no, mando a te, poi dopo vedi tu come trasferire, magari. Ottimo. Ci vorrebbe, sai cosa ci vorrebbe? Un geometra proprio, però. Vabbè. Tu sei geometra per caso? No, io no, e non ne conosco, guarda. Non conosci geometri, va bene, ma è una professione rispettabilissima, come vedi. Sicuramente. E anche utile in molti campi, va bene. Fornetti caldi per tutti, Alessandro Milan, il Perozzi dell'informazione. Eccolo lì, direttamente da amici miei. Allora, cari ascoltatori, a Roma pare che non si parli d'altro, e anche sui giornali, soprattutto in quartieri come l'Eur. E forse avete già capito, se siete di quella zona, cari amici di Roma, di cosa vi sto per leggere. Allora, Ignazio Marino, il sindaco, vuole lanciare il progetto di zoning, che è già c'è già stato per le prostitute a Mestre. Cioè la zonizzazione, dividere il territorio in aree omogenee e garantire una zona dove si possano incontrare clienti e prostitute senza creare tensioni per il resto della cittadinanza. E questa zona sarebbe appunto l'Eur. Allora, è il progetto di cui parlano tutti. Il titolo del Corriere della Sera, però, c'è qualcosa in più che Ignazio Marino ha proposto e che ha subito scatenato una ridda di reazioni. A casa le multe per prostituzione, cioè creare una zona dove è tollerata la prostituzione, è controllata, eccetera. Se il cliente invece viene pescato fuori da questa zona, una bella multa da 500 euro a casa, nella quale c'è scritto, nella quale multa, che è stata presa perché si cercava di contrattare con una prostituta fuori dalle zone consentite. Pensate, che ne so, la moglie, la compagna, il compagno, l'amico che riceve questa multa, come sarà felice insieme ovviamente al mancato cliente. Multe a casa dei clienti delle lucciole, zone di tolleranza lontane da parchi pubblici dove vanno le famiglie o da abitazioni e scuole. Questa è l'ultima idea del sindaco di Roma, Marino, per combattere o quantomeno limitare il fenomeno della prostituzione in strada. Da giorni a Roma, come racconta il Corriere, non si parla d'altro. Col primo municipio pilota già individuato all'Eur, al quale potrebbero seguirne gli altri, l'idea ha scatenato critiche e polemiche sia dal mondo cattolico sia da parte delle forze di polizia. Il prefetto Pecoraro ha parlato di una proposta come una boutade bella e buona, che manca di riferimento normativo nazionale. Per questo adesso Marino sembra un po' frenare. Racconta il Corriere anche con Alvira Serra l'esperienza appunto di Mestre, dello zoning, un'esperienza considerata riuscita a Mestre. Nel 95 si prostituivano in 150, oggi sono solo 58. C'è un'intervista all'allora prosindaco Bettin che dice: non me la sento di dire che la nostra esperienza è la migliore di tutte, ma da noi ha funzionato perché è stato siglato un protocollo anche con la prefettura. Comunque anche Repubblica, Roma, lite sulle multe a casa dei clienti. Ecco, basta lanciare queste ipotesi e subito si è scatenata una bufera sulla possibilità di mandare le multe a casa dei clienti. Non male questa idea. Oh, c'è anche molto riguardo all'impiego pubblico. Tre articoli vi voglio sottolineare. Il primo è sulla Stampa, pagina 4. La beffa per 80.000 statali che hanno superato il concorso, ma la legge di stabilità ha bloccato il turnover e le graduatorie saranno cancellate. Paolo Baroni racconta, pagina 4, pensavano di avere in mano un biglietto della lotteria di quelli buoni. Hanno passato in 80.000 il concorso per diventare dipendente pubblico. Poi però il governo ha abolito le province. Si è ritrovato con 20.000 persone da ricollocare e per questo ha bloccato tutte le nuove assunzioni. Risultato: stop al turnover in ogni tipo di amministrazione, sia centrale che periferica, forze di polizia comprese, fino a tutto il 2016. E così per 80.000 idonei, alcuni in attesa della chiamata ormai da anni, il posto si è volatilizzato. Ricorsi, mobilitazioni, eccetera, ma racconta comunque questa cosa del pubblico impiego la Stampa a pagina 4. A proposito di pubblico impiego, due articoli. Uno, il Corriere, con Alessio Ribaudo a pagina 21, si racconta delle soffiate. Quali sono le le province, i comuni, gli enti pubblici che ricorrono al whistleblowing, cioè la denuncia, no? Il suonare nel fischietto, quelli che denunciano i colleghi che magari fanno qualche magagna. In America è molto diffusa questa cosa, in Italia è regolato solo per gli enti pubblici dalla legge Severino del 2013, trovate tutta pagina 21 del Corriere della Sera. Mentre il Giornale fa un'inchiesta sull'assenteismo in Italia e gli imprenditori che assumono sempre più gli 007 contro l'assenteismo, un'inchiesta a pagina 11 e 12. Ma eccoci qui, siamo al momento conclusivo. L'articolo più inutile sui giornali, siamo sempre sul Giornale con Massimo Bertarelli. Parte Sanremo e Bertarelli racconta, esordendo: forse sono matto, ma io Sanremo me lo son visto tutto, e racconta tutte le puntate dal 1955. Ma chi se ne frega. 24 mattino. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, c'è un signore a Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza, che fino a qualche giorno fa era un semplice benzinaio di 65 anni. Una persona che, suo malgrado, di colpo è stato catapultato in una vicenda probabilmente anche più grande di lui. Questo signore si chiama Graziano Stacchio, un nome che forse avrete già sentito in questi giorni. Lui qualche giorno fa ha sventato una rapina a una vicina gioielleria e nel farlo ha ucciso uno dei rapinatori, Alberto Cassoldi, 41 anni, pluripregiudicato. Da quel momento Stacchio è diventato un personaggio al quale molti addirittura inneggiano al grido di eroe, ha fatto bene, c'è addirittura chi ha stampato delle magliette: io sto con Stacchio. Lui per la verità è indagato ora per eccesso colposo di legittima difesa, se la vedrà dal punto di vista processuale. E giovedì, ospitato da Virus su Rai 2, Stacchio dice questo. Chi mi conosce lo sa cosa sono, in effetti. Io praticamente ho 65 anni, la ragazza ha 30 anni. Giudichi lei. Io pensavo solo a lei, io non ho mica sparato per uccidere. Questo lei già. Io la mia coscienza è a posto. Io non sono mica un eroe, non sono mica un giustiziere, permesso questo. Io dico che se lui non ha rispetto per la vita degli altri, almeno avesse rispetto per la sua. Questo ha detto Stacchio, che poi ha aggiunto in varie interviste, in alcune dichiarazioni strappate dai giornalisti: non mi sento un eroe, come avete sentito, non sono un divo, non fa comunque bene uccidere una persona e non mi sento bene. Io voglio salutare intanto il sindaco di Ponte di Nanto, Ulisse Borotto. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. La domanda alla quale anche lei probabilmente si è sentito catapultato alcuni giorni, in una storia per la quale di certo non ha molto piacere di dover parlare di Ponte di Nanto, della sua città. Quanti abitanti fate? Allora, Nanto fa 3.100 abitanti. 3.100. Mi creda, avrei pensato parlare di Nanto, del suo olio, del suo tartufo, dei suoi monumenti, della sua storia, ma certamente non di questo evento drammatico, certo. Che come ha ben detto lei, alla fine Graziano Stacchio, il nostro concittadino, è una vittima. È una vittima. Guardi, sindaco, io intanto voglio salutare con lei Roberto Zancan. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il titolare dell'omonima azienda e della gioielleria che è stata assaltata, è salita, esatto, quel giorno. Era lì, ovviamente, quindi ha assistito a tutto. Purtroppo sì. E purtroppo non è la prima volta, se non sbaglio. Magari, perché dici, beh, una volta nella vita la puoi mettere, anche se è assurdo ragionare così, però no, non è la prima volta. Questa gioielleria è già il terzo attacco che ha subito, dei quali uno sventato, che l'abbiamo saputo dalle forze dell'ordine 4 mesi dopo, per non terrorizzarci e intimorirci. La prima è andata a buon fine, la seconda è stata sventata e la terza è successo quello che è successo, è tutto qua. Certo, senta, poi dal punto di vista processuale, ripeto, ci sarà tutta la vicenda, c'è qui il sindaco anche che l'ascolta, il sindaco Borotto. Io vorrei capire qual è la sua posizione, perché tutti adesso si interrogano sul ruolo di Stacchio, che moltissimi definiscono come un eroe. Il sindaco ha detto in fondo è una vittima anche lui, si è trovato, certo, in questa situazione, certo. Lei cosa ne pensa di Stacchio? Guardi, lo conosco da una vita, è la persona più tranquilla e pacifica che ci possa essere. Sinceramente, se ha fatto questo l'ha fatto prettamente per la salvaguardia di Jenny, che capisce benissimo che è un paese piccolo, tutti ci conosciamo, e Jenny praticamente è quasi una figlia per lui. Ecco. Zancan, che ne pensa lei di Stacchio? No, Stacchio ha fatto quello che doveva fare, ha fatto soltanto un gesto di responsabilità. Cosa gli si può dire a una persona che mette a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri? E su questo infatti è il parere, diciamo, di lui ha di agito, tutti, glielo dico io perché ero lì presente, ero a fianco a lui quando ci passavano i proiettili a destra e a sinistra, che uno mi è passato a 5 cm dalla testa e si è conficcato addosso la colonna della pompa di benzina, e non glielo auguro a un cane di provare quello che ho provato io, ok? Perché l'unica arma che avevo io era la disperazione, stavo andando a braccia alzate verso i banditi per dire lasciate stare che vi apro, lasciate stare la ragazza che c'è dentro. E Stacchio mi ha detto ma sei impazzito, mi fa ti ammazzano, e hanno cominciato a spararmi addosso, ok? Ma hanno cominciato a spararmi addosso venendo verso di me, perché non si è accontentato di star fermo, venendo verso di me. Cosa doveva fare Stacchio? Ah, guardi, ma io, diciamo, in quella situazione io. Esatto, te le dico che altri nella sua situazione sarebbero scappati. Ma tanti altri sarebbero scappati. Perché con la bocca siamo eroi e bravi tutti quanti. Però lei l'ha sentito Zancan lui stesso dire: io, cioè, ci sono dei giorni in cui dico sicuramente ho fatto la cosa giusta, poi penso che comunque ho ucciso una persona. Ma ecco. certo, perché quando uno è buono, quando uno è onesto, quando uno pensa solo al proprio lavoro e dedicarsi agli altri, logico che dopo ti vengono i rimorsi, ma per me la sua coscienza è pulita e resterà pulita finché il giorno che vivrà quell'uomo lì. E che è un po' la sensazione che anche lui stesso, quando ha detto a Virus, io di fronte a una persona che non ha rispetto per la vita, perché era un rapinatore che sparava. Ma cosa vuole che altri non hanno rispetto neanche per la propria vita, altrimenti non si metterebbero un giubbotto antiproiettile e si armerebbero di armi da guerra e vanno in giro a terrorizzare la gente onesta e i paesi interi. Ma di cosa stiamo parlando? Lei, signor Zancan, so che ha detto dopo questa esperienza che vuole chiudere tutto. Ma il negozio resterà chiuso, ma chi è che ha il coraggio di andare a gestire e amministrare una cosa del genere? In queste condizioni, io ho subito anche un sequestro di persona con i miei figli piccoli che sono terrorizzati perché si svegliano e gridano ancora di notte. Ho subito un assalto alla fabbrica, cioè dove c'è la produzione, e mi sono trovato qua da solo in mezzo ai banditi, cioè cosa devo fare ancora? Aspettare che mi ammazzino? O chiamassimo qualche mio familiare, cosa devo fare? Ah, ma guardi, ma la sua posizione, infatti, non ho nulla da ribatterle, nel senso che voglio dire, sindaco, qui la situazione è chiara. Anche Zancan dice 2 rapine, 3 rapine, un sequestro di persona. Cioè, il senso mi sembra di poter dire, di tradurre, di totale abbandono, in questo caso di un imprenditore, in questo caso di Stacchio, anche che è intervenuto. Cioè, le istituzioni cosa fanno? Intanto io le chiedo che cosa ne pensa anche delle magliette. So che è stato un sindaco di un altro paese a voler promuovere queste magliette. Io sto con Stacchio, lei forse un po' ha criticato l'iniziativa. Però ho criticato perché non volevo la spettacolarità dell'evento, perché non abbiamo bisogno della spettacolarità. Però alla fine non posso neanche dargli torto, alla fine, ecco, perché questo tam-tam alla fine mediatico ha sollevato un problema che è un problema di giustizia, no? Se fosse, adesso mi scusi i toni che uso, però se fosse morto praticamente l'amico Robertino, che saluto, o se fosse morto l'amico Graziano, ci sarebbe stato tre trafiletti e sarebbe finito lì, no? È morto un bandito, no? E adesso c'è tutto questo can-can. Perché? Ma e non solo, ricordiamo anche una cosa, Graziano Stacchio, lo dico io sindaco, in questo momento sì. È sotto scorta. Cioè, perché il questore ha deciso di metterlo sotto scorta per il timore, ovviamente, che i familiari della persona che è rimasta uccisa in questa sparatoria possano in qualche modo fare una ritorsione. Sindaco, prego. Sì, ma il problema è la giustizia, no? Che è una giustizia che ho già detto mille volte ormai, è a corrente alternata, non c'è la certezza della pena. Voglio ricordare l'altro giorno che sono stati feriti due carabinieri a Padova, no, accoltellati al braccio e alla gamba, e il giorno dopo questa persona è stata liberata. Capisce dove, cioè, il senso di abbandono, no? L'ho letto prima in rassegna stampa, mi è sembrato l'articolo più incredibile, lo vogliamo ricordare. Due persone, uno spacciatore libico, certo, che sì, a Padova ha accoltellato due carabinieri durante una fase di arresto perché l'hanno preso in flagranza, certo, di reato, e il giorno dopo il giudice ha deciso di scarcerarlo lasciandolo solo col divieto di dimora a Padova. Ovviamente è uccel di bosco, certo, in questo momento non si trova più. È pazzesco, è qualcosa di abnormale, non esiste, non ci deve essere questo, capisce? Ecco perché allora noi domani sera faremo la marcia della solidarietà e della sicurezza. Ma solidarietà a Stacchio? O in generale? Stacchio in generale, comunque, perché siamo vittime, non solamente Stacchio, non solamente Robertino, ma siamo vittime tutti, perché andiamo fuori di qui ma non sappiamo cosa succede alla fine, no? Perché il proiettile vagante praticamente può arrivare a tutti. Zancan, lei parteciperà a questa, sapeva di questa manifestazione domani sera? È la risposta giusta, voglio dire, che le autorità possono dare? O lei cosa si aspetterebbe? Cosa vorrebbe di risposta dalle forze dell'ordine, dalla polizia? Zancan. Guardi, dalle forze dell'ordine niente, perché stanno già facendo tutto il possibile per quello che gli è permesso di fare. Io invece vorrei andare un po' più in alto, ok? Andare a toccare quelle persone che sono sempre tanto vicine a noi quando è ora di prendere il voto, e dopo quando arrivano là si fanno solo i cazzi suoi e a noi ci abbandonano come siamo sempre stati abbandonati, ok? Ci vorrebbero tre regole per sistemare tutto quanto. Pena certa, ok? Invece di svuotare i carceri, facciamone di nuovi, creiamo posti di lavoro e facciamo carceri produttivi, così gli insegniamo a come si lavora onestamente a quella gente lì, e così si automantengono. Poi? Ok, dopo, visto che Pannella è così vicino, che io di politica non me ne sono mai occupato, non mi metto certo a 50 anni, visto che Pannella vuole così bene ai carcerati, dentro a vita insieme a loro, così gli sta vicino. Beh, insomma, adesso Pannella dentro a vita, così, insomma. Cioè... Li vuole tirar fuori. Il carcere, su questo, Zancani, io posso capire, lei parla giustamente anche molto, molto arrabbiato per quello che è successo. Guardi, io vorrei dirgli al magistrato che ha liberato... Sulla pena certa sono d'accordissimo con lei, assolutamente. Che ha rimesso in sì, libertà quel spacciatore di Padova, no? Sì. Okay? Che gli dassero una divisa da poliziotto. Ok, e che andasse a fare quello che fanno i poliziotti, e che gli capitasse quello che è ricapitato con i poliziotti. Scommettiamo che quello lì sarebbe in carcere adesso. Lei dice, beh, ma quella è effettivamente una decisione che ha molto colpito, infatti è oggi sui giornali. Comunque sulla questione pena certa la seguo ciecamente, questa è una delle cose. È giusto, non la seguo meno sul secondo punto, è giusto che il carcere rieduchi anche laddove si può rieducare, a fianco alla pena certa, cioè il carcere è espiazione della pena da una parte e poi anche tentativo durante l'espiazione della pena di rieducare una persona. Questo il problema è che manca manca soprattutto anche la prima, a volte di questione. Lei comunque Zancan lo definirebbe tranquillamente un eroe Stacchio, perché lo stesso Stacchio non voleva essere eroe in quella situazione, non voleva chiaramente, non voleva trovarci perché non voleva una rapina prima di tutto. Ma nessuno penso che voleva trovarsi in quella situazione lì. Ma per lei è un eroe, cioè una persona che è intervenuta e ha fatto la cosa giusta, assolutamente. Per me sì. Cioè, vi ricordo che ha salvato la vita mia e quella della dipendente che era dentro lì. Se queste bestie qua riuscivano ad andare dentro, che lei ha avuto un coraggio di ferro, ok, a tenere dentro il delinquente, il primo che è entrato, lei ha avuto il coraggio di non aprire più le porte e farlo uscire, e tantomeno far entrare gli altri che minacciavano da fuori. Se queste bestie andavano dentro, non so cosa succedeva, perché lei in qualche maniera ha intralciato il loro scopo. Certo. Qualcuno si rende conto, perché secondo me qua parliamo, ma dopo sotto qualcuno si dimentica o si perde per strada su quello che poteva avvenire veramente se Graziano non interveniva. Ma io credo. Le forze dell'ordine sono arrivate dopo mezz'ora, forse più. Io credo, tra l'altro, che l'indagine, poi si vedrà il processo, ma in questi casi l'indagine per eccesso colposo di legittima difesa va aperto un fascicolo, perché è così in Italia, va aperto quasi d'ufficio. Ma credo poi dalla ricostruzione che arriveranno i magistrati a capire che. Me lo auguro. Lei se lo augura, se lo augurano un po' tutti. Non è la prima volta di processi di questo tipo. Per concludere, sindaco, mi faccia capire, voi, perché si è letto anche di avvocati difensori che qualcuno vuole pagare, vuole stare vicino a Graziano Stacchio in tutti i modi per cercare di aiutarlo anche dal punto di vista processuale, se ci sarà un processo, poi può darsi che venga archiviato tutto. Voi farete qualcosa come comune? Guardi, la solidarietà nostra ci sarà sempre, anche quando si spegneranno i riflettori, perché è lì che conta la solidarietà, esatto. Essere vicino alla famiglia, essere vicino anche alla nostra comunità, perché la nostra comunità, ho già detto, non deve dimenticare, perché questa qua è qualcosa di veramente drammatico, ma dobbiamo andare avanti però, dobbiamo andare avanti. Questo sì. Vabbè, ma pensare di fare una sorta di solidarietà anche economica, ci avete pensato oppure è una cosa prematura? Guardi, Robertino Zancan pagherà un avvocato. Sì. E l'altro avvocato si sta raccogliendo praticamente dei fondi tramite Confcommercio e tramite altre varie associazioni che si sono create per pagare le spese processuali. Poi, dopodiché, sicuramente noi ci muoveremo man mano che verranno praticamente i problemi, Va bene, intanto saremo a vedere anche noi, se possibile, se ce lo consentirete, non spegneremo i riflettori su questa vicenda. Io intanto vi ringrazio, al sindaco di Nanto Ulisse Borotto e Roberto Zancan, che è il titolare della gioielleria che è stata assaltata, per la quale c'è stata questa sparatoria e l'intervento di Graziano Stacchio. Grazie per essere stati con noi. Devo dire che i messaggi sono praticamente tutti unanimi, da chi dice in maniera brutale ha sbagliato Stacchio perché ne ha ucciso solo uno, a chi dice mille Stacchio, io sto con Stacchio, sottoscrivo tutto quello che ha detto anche il gioielliere Zancan. Sì, devo dire che non ci sono, così almeno da vedere dei messaggi, chi propone addirittura un vitalizio al benzinaio di Vicenza, non ci sono messaggi, come dire, contrari o critici. Andiamo in pubblicità. Dopo la pubblicità, se volete intervenire anche su questo argomento, fino alle 9 siamo in diretta, 800 24 00 24 è il numero per intervenire. Parleremo invece anche di politica dopo la pubblicità. Avremo con noi l'onorevole Mario Rabino di Scelta Civica. Scelta Civica è quel partito che si è un po', come dire, anche sciolto, nel senso che molti di Scelta Civica sono passati al Partito Democratico, non l'onorevole Rabino, che fa parte ancora di Scelta Civica, è il numero 2, e vorremmo capire da lui che ne pensa di questi stabilizzatori, vengono chiamati così adesso, stabilizzatori. 24 mattino. Sono le 8:39 minuti, eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora vogliamo parlare un po' di politica e lo facciamo con l'onorevole Mario Rabino, che è di Scelta Civica. E, Rabino, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. E, c'è da dire, rimane di Scelta Civica, cioè dire è di Scelta Civica in questo momento è un qualcosa, ma lei lo ribadisce con orgoglio, con assolutamente sì. Assolutamente. Guardi, il problema di Scelta Civica è di non essere mai veramente decollata. Scelta Civica è stata un'intuizione straordinaria, ma è rimasta una lista elettorale fino a ieri. Sì. Che ha prodotto dei gruppi parlamentari che non hanno mai avuto il coraggio poi di diventare soggetto politico, movimento politico. Da ieri c'è il segretario Zanetti, lei è il numero due. Fatta. Io sono felicissimo che finalmente siamo arrivati ad una leadership democraticamente determinata, con un radicamento iniziale nei territori e con un grande consenso tra i parlamentari, diciamolo pure, rimasti. Quelli che ci credono. Quelli che ci credono. Quelli, ecco, che non devono difendere una poltrona. Ora, eccolo lì, arriviamo subito alla questione. Quindi, secondo lei, coloro che hanno lasciato Scelta Civica, non so, penso i nomi più famosi sono il ministro Giannini, la sottosegretaria Ilaria Borletti Buitoni, e sono passati al Partito Democratico, come li definirebbe? Diciamolo francamente, traditori, volta campana. Non ho nessuna difficoltà, adesso non vorrei esagerare nei paroloni, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Lasciare il proprio partito con uno strappo a due giorni dal congresso del tuo partito, il partito grazie al quale hai assunto incarichi importanti, non è esattamente una cosa brillante ed elegante. Vabbè, e qui non mi ha esagerato, qua. Si ferma mi fermo qui. Qua. Perché il tradimento... Sono autorizzati a pensare... non bene di queste transumanze, diciamo così. Transumanze, anche lei le chiama transumanze, anche se le fanno le bestie le transumanze. Vabbè, adesso sì, è diventato un termine anche utilizzato in politica per definire i traslochi. Ma certo, perché sa, tradimento in politica è un concetto un po' ambiguo. Ieri Libero diceva che 170 parlamentari dall'inizio della legislatura hanno cambiato partito, cioè si può definirli traditori secondo lei? Secondo me il concetto di tradimento in politica è, come ha detto lei bene, fuori luogo, nel senso che in politica si può cambiare idea, si deve cambiare idea e quando si cambia idea si può anche cambiare partito. Io non demonizzo chi lo fa, devo dire che demonizzo chi lo fa senza stile, a due giorni dal congresso e magari senza mettere in discussione i ruoli di prestigio che ha avuto grazie a quel partito. Cioè tipo dovrebbero dimettersi da ministro e vice sottosegretario. Dire, almeno una riflessione sul tema sarebbe auspicabile. Ah, ma loro lo dicono, cioè per esempio Borletti Buitoni oggi al Corriere della Sera dice il mio posto da sottosegretario è a disposizione del Presidente del Consiglio se ritiene opportuno. Io posso apprezzare questa tardiva riflessione del sottosegretario Borletti Buitoni. Però ho imparato che in politica le dimissioni si danno, non si offrono, non si prefigurano, non si profilano, si danno. Poi magari c'è qualcuno che te le respinge se sei stato elegante. Io credo che questi ex colleghi di partito abbiano tutte le ragioni tranne quella di rivendicare una qualche eleganza nell'atto e nell'azione di fare che hanno operato, ripeto, a due giorni dal congresso. Ma voglio dire che li ringrazio, tutto sommato, lo dico anche con una sorta di paradosso e anche con un po' di ironia, perché probabilmente il nostro congresso sarebbe passato in sordina, invece abbiamo avuto un'attenzione mediatica senza precedenti, sì. E tutto sommato mi consente anche una battuta, per una volta siamo stati più veloci di Renzi, del premier Renzi, e cioè visto che si sta andando verso l'abolizione del Senato, Scelta Civica ha deciso di chiudere la propria delegazione al Senato, uffici parlamentari. Certo, non ci siete più. Non ci servono più. Tanto al Senato non ci dovremmo più mandare. Sono tutti al PD. Senta un po', ma sa che c'era la polemica. Lei Scilipoti, per esempio, lo considerava un volta gabbana, perché adesso si chiamano, sa come li chiama adesso? Stabilizzatori. Sì. Guardi, io anche qui francamente credo che ci sia una grande differenza tra chi passa dall'opposizione alla maggioranza, e nel caso di Scilipoti e Razzi, lei lo ricorderà, sì, certo, parlamentari dei valori di opposizione che passarono alla maggioranza. rispetto a chi magari si riposiziona tra partiti. Mm. Effettivamente Scelta Civica è già al governo, ecco. Esattamente, io credo che le cose vadano sempre poi ponderate, valutate con un certo equilibrio. Torno a dire, rispetto l'evoluzione, le valutazioni di tutti, le cose però vanno fatte a tempo debito e con eleganza. I nostri ex colleghi potevano venire in congresso, certificare di essere minoranza, manifestare il loro disagio e poi andarsi, magari decidere di andare. Senta, ma mi dica la verità. Non hanno fatto, non fa loro. Non è elegante, mi dica la verità, ma Mario Monti, ma che cosa dice di tutto questo? Cioè, non quello che dice ufficialmente, cioè è disperato. Guardi, dai, penserà che veramente la sua avventura politica dopo essere stato premier è stato un disastro, no? Guardi, Mario Monti credo che sia stato un grande presidente del Consiglio, chiamato dalle circostanze, non certo autocandidato, sì, o autproposto. E poi? Dopodiché Mario Monti, come tutte le persone, ha manifestato nel settore della politica probabilmente una qualche difficoltà, così come io proverei difficoltà ad esercitarmi magari nell'ippica o nella botanica. Oggettivamente, ma è stato lui a riconoscerlo e lo riconosce in tutti i colloqui pubblici e privati. Soltanto qualche giorno fa con me, durante l'elezione del Capo dello Stato, ha confessato, insomma, la politica non è pane per i miei denti. Cioè, nel senso che non doveva fare Scelta Civica, non doveva candidarsi. Col senno di poi, dal suo punto di vista, indubbiamente sì. Io credo però che Scelta Civica sia stata utile 2 anni fa, in quel passaggio del nostro paese, perché c'erano 2 poli. Sì. Il PD di Bersani e il PDL di Berlusconi, che erano veramente alla frutta e non avevano dato buona prova di sé. Per cui è stato importante aprire uno spazio libero, aperto all'ingresso di nuove leve in politica, di eccellenza e intelligenza della società. Sì. Poi non siamo stati capaci, diciamolo pure, lui per primo, a trasformare quella intuizione in un soggetto politico, in un riferimento. Però ci provate oggi. L'ultima domanda, onorevole Rabino, è questa: si è visto anche Passera, che è stato nostro ospite qualche giorno fa, e si parla già di un'unione, cercare di unire i moderati. Guardi, perché insomma dovete fare un po' massa come voti. Questo lo vedremo. Intanto adesso abbiamo un leader giovane, capace e moderno come Enrico Zanetti. Sì. Noi vogliamo essere il seme, la miccia, il detonatore di un Big Bang nel campo liberal-democratico. Se in questo Big Bang di, diciamo così, distruzione creativa, di ricostruzione, ci sarà Passera, ci saranno i compagni di strada oggi al governo di UDC-NCD, ma soprattutto tanti cittadini, tanti movimenti, tante associazioni che queste settimane che hanno manifestato interesse e adesione, credo che potrà nascere un soggetto politico liberal democratico che l'Italia manca, che potrebbe svolgere un ruolo di stabilizzazione. Vabbè, ma invece quando incontrerà la Giannini o la Borletti Buitoni o Benedetto Della Vedova, che succede? Qualche parolina magari volerà? No? Guardi, stringerò la mano agli ex colleghi e dirò: hai sbagliato, e però la vita continua. La vita continua, va bene, mi sembra giusto. Onorevole Mariano Rabino, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è il responsabile organizzativo di Scelta Civica. Grazie, è il vice di Zanetti, numero 2 del partito, Scelta Civica, che sta un po' tribolando con queste transumanze. 24 mattino. Allora, sul tema di prima, invece, del benzinaio che ha sparato sventando una rapina, vorrei sentire ci sono due Paolo. Da Milano, buongiorno. Siamo a Milano, da Paolo, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare questa considerazione. Sì. Fermo restando la certezza della pena, la prevenzione sul territorio, il controllo dell'immigrazione, a mio avviso nessuno è autorizzato a questo tipo di eccesso di legittima difesa. Questo lo fanno solo le forze dell'ordine. Questo lo dice lei, che è eccesso di legittima difesa, poi bisogna... Certo, per l'amor di Dio. Diciamo questo tipo di approccio. A mio avviso, già che un privato cittadino detenga un'arma è una cosa che io non capisco, e gli Stati Uniti dimostrano che questo non porta da nessuna parte. Ci sono i porti d'arma per caccia, ci sono... Certo, questo porti d'arma per caccia, per tiro, per tutto, questo capisco, ed è uno sport, una passione. Ma l'arma per difendersi, questa è una cosa che spetta alla forza pubblica. Queste sono parole, Paolo, sono le sue parole, però poi poi nel caso concreto, cioè questo signore, questo benzinaio, ha visto questi che sparavano e picchiavano la gioielleria, ha detto di andare via, guardate che chiamo i carabinieri, è andato a casa, è tornato con la casa di vicino, è tornato col fucile, ha detto andate via, questi, ha sparato in aria. E questi gli sono andati contro con la pistola sparandogli, e a quel punto ha sparato alle gambe. Cioè, lei che avrebbe fatto, Paolo? Cioè, nel senso, le sembra così, come è la sommaria ricostruzione, poi si vedrà, un eccesso di legittima difesa? Non lo so, a me sembra una cosa. Ha fatto bene, ecco, lo dico così. Grazie comunque, Paolo. Andrei sempre da Paolo a Padova. Buongiorno, Padova. Buongiorno, io la penso un po' diversamente dal signore di prima. Allora, primo, il benzinaio ha fatto benissimo ad intervenire. Secondo, non vedo nessun la più grande cazzata è incriminarlo per eccesso di legittima difesa. Vabbè, cioè, questo vedrà. Cioè, la legge è chiara, la legge scusi, è chiara. Mi scusi, uno o si difende o si mette a 90 gradi all'amarazzo. Cioè, le spiego. Allora, una domenica alle 3 di notte c'è stato un tentativo di intrusione in casa mia. Hanno rotto la porta, mia moglie ha sentito, sono andato giù di corsa, se ne beccavo qualcuno, facevo un fuoricampo con qualche testa. Adesso viviamo nel terrore. Sì. Mia moglie, prima di andare a letto, va a fumare due sigarette. Io apro la porta armato di coltello. Se c'è uno che tenta di entrare in casa mia, lo apro come un branzino. Cioè, se i deficienti di ladri stavano a casa loro, il benzinaio non avrebbe sparato nessuno. Perché se c'è tolleranza per i ladri, dobbiamo anche uno che va via armato per fare una rapina mette già in conto che succede, che l'arma gli serva per difendersi. Quindi che ci possa scappare il morto. Paolo, lei è stato chiarissimo. È stato chiarissimo, la ringrazio. Ciao Italia! È il nostro momento! Siete pronti? È il momento in cui invitiamo uno di voi che ci segue dall'estero. E oggi abbiamo un altro Paolo. Tutti Paolo, se non si chiamano Paolo non interviene. Paolo, buongiorno! Buongiorno Milan, piacere di risentirla. Ci siamo comunicati qualche mese fa per email quando ero in Libia. Fantastico, eri in Libia. Dove sei adesso, Paolo? Adesso sono in Mozambico, Maputo. In Mozambico, bellissimo. Siamo dovuti andare via dalla Libia, che dovevamo fare. Eri in Libia e giustamente sei dovuto andare via. Siamo un po' tiepi dall'aria, un po' troppo. Vabbè, allora. Giri per l'Africa, questo è bianco. Che fai in Mozambico? Sostanzialmente io ora Africa subsahariana, perché diciamo sono i mercati in crescita, e cerco di mettere insieme la domanda con l'offerta, per cui individuo e imprenditori africani che hanno interesse ad unirsi ad imprenditori italiani che hanno l'abilità del saper fare, cerchiamo di azienda, cerchiamo di portare il prodotto più vicino al mercato. Che bello! Ed è un paese bello, vivace, in espansione, il Mozambico. Particolarmente bello, vivace, in espansione. Poi bisogna avere la cura di guardarsi intorno con un po' di spirito libero, vorrei dire. Insomma, noi abbiamo molti pregiudizi sull'Africa. Poi andiamo magari in Mozambico e ci rendiamo conto che poi dire l'Africa vuol dire tutto. L'Africa è un continente sterminato con tutti i suoi paesi e sfaccettature. Una delle esperienze più belle è il Botswana. Uno parla del Botswana, le classifiche. Il Botswana è davanti all'Italia per voi. Eh sì, ma certo. È davanti all'Italia. Un paese che ha un rating superiore a quello dell'Italia, per dire. È chiaro. Ci vuole spirito d'adattamento, bisogna ascoltare un po' la gente, guardarla negli occhi e capire se si può lavorare. Certo. Come ci segui dal Mozambico? In live streaming, immagino, no? Sì, con praticamente l'iPad collegato quando ho un collegamento internet efficiente. E l'ascolto quando non mi nervosisco troppo ad ascoltare le notizie dall'Italia. Vabbè. Tanto il fuso orario più o meno è quello, no? Sarà quello stesso. Sì, un'ora di differenza. Cos'è la cosa più bella in Mozambico, scoperta in Mozambico, più dinamica, che magari manca all'Italia? Un consiglio dal Mozambico per l'Italia. Beh, la voglia di fare, la voglia di rischiare, anche se nel mio lavoro cerco di fare in modo che i miei imprenditori, cioè gli imprenditori italiani, rischino pochi capitali, perché giustamente se lei è un imprenditore africano che vuole fare qualcosa con gli italiani, almeno i soldi deve avere, quello è il dato fondamentale, altrimenti. Perché già le nostre aziende comunque quando si spostano rischiano tanto. e il know-how è un valore molto molto importante. E la cosa più straordinaria è questa voglia di fare, questa quasi mi permetto, le rubo solo un secondo, girare per il mondo, soprattutto in questi paesi, è come stare nella macchina del tempo. E in questi paesi mi torna in mente quello che è la ricchezza dell'Italia, che è il lavoro, cioè noi non abbiamo il petrolio, la grande straordinaria ricchezza dell'Italia è il lavoro. Se noi guardiamo un attimino indietro, i nostri genitori, i nostri nonni sono persone che lavoravano 18 ore al giorno e non si sentivano schiavi, ma avevano la dignità di voler costruire qualcosa. Io questo, in questi paesi si ritrova questo, in questi paesi, ed è bellissimo. che lingua si parla in Mozambico, la lingua ufficiale? Per lo più il portoghese, diciamo, in linea di principio, a meno che non vai nei paesini e quindi in qualche modo ci sono i dialetti, però parliamoci francamente. La lingua del lavoro è l'inglese, quindi, l'inglese. Senza andare lì a guardare dove si parla il portoghese, il francese o il turco, l'inglese. L'inglese è la lingua universale, è inutile, è così, cari italiani, care ragazze, cari ragazzi, studiate l'inglese. Lo scopriamo anche da Paolo dal Mozambico, che salutiamo con grande affetto. Un abbraccio ovviamente, Paolo, a tutto il Mozambico, anche alla Libia, voglio dire, dove si sposta per il mondo. E voi scriveteci 24 mattino e radio24.it se volete essere chiamati anche voi dall'estero. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione con Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi, in regia c'è Gianmarco Ferronato all'inizio, adesso c'è Carmelo Lauricella e vi saluto e a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.